Avventurieri, ricordate le parole del monaco. Lo strumento deve essere sintonizzato. Solo allora potrete captare la frequenza delle voci dimenticate.